Mai, amerò qualcun'altra dopo te, Valentina, Valentina. Mai, troverò occhi belli come i tuoi, come gli occhi di Valentina. E se vorrai, felice sarai, solo se saprai volermi bene. E così, se tu lo vorrai, io sarò sempre con Valentina. Mai, amerò qualcun'altra dopo te, Valentina. Lo sai. Valentina. Mai, troverò qualcun'altra dopo te, Valentina, lo sai.